È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. :18:38, eccoci qua per un'altra settimana insieme alla Zanzara. Alle 21 chiudiamo, ma abbiamo tutto il tempo per raccogliere i vostri interventi sui fatti del giorno. Numero verde 800 24 00 24, 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. TG2. Bossi rilancia la proposta di Tremonti vice premier, così spiega si stabilizza la situazione. Per Bersani il primo ostacolo, Rutelli potrebbe lasciare il PD. Strage familiare a Catania, al culmine di una violenta lite, uccide a coltellate moglie e figlia di 8 anni, ferita l'altra figlia 13enne. Ilary Blasi colta da un malore in strada a Roma, le immagini riprese con un telefonino, rilanciata l'ipotesi di una gravidanza della showgirl, moglie di Francesco Totti. Liberate Derzi, rivolta in Gran Bretagna su Facebook per il cane eroe che aiutò i soccorritori delle vittime del sisma in Indonesia. Per le rigide regole della quarantena, la femmina di Colli è confinata in una gabbia. Beh, sentire e vedere, per chi l'abbia visto in televisione, tra i titoli del TG2 il malore di Ilary Blasi potrebbe essere incinta, è strepitoso. Iniziamo subito con una cattiveria. La cattiveria è questa: per prevedere chi sarebbe stato il vincitore del primario nel Partito Democratico, bastava in realtà semplicemente ascoltare Nanni Moretti, sentitelo prima, e poi non si capisce perché questi personaggi parlano in politichese. Voto per questo, preferisco questo, però non dico perché, per non alimentare polemiche. Ma chi è Moretti? Sembra un politico come gli altri, tutto prudente. Sentiamo. Chi vota? Io voto Franceschini, e però non, oggi, siccome è un giorno di festa, di partecipazione, non, e ogni parola poi diventa una polemica nei confronti degli altri due candidati, quindi insomma mi fermo qui, insomma la mia preferenza va a Franceschini, però insomma non... Oggi non voglio aggiungere altro. Oggi non voglio aggiungere altro, sembra un Gasparri qualsiasi. Altra cattiveria, Giampaolo Panza questa mattina da Oscar Giannino, sentitelo su Franceschini, duro, durissimo. Quando da aiutante Franceschini è diventato generale, ma è cominciato un carnevale pazzesco, dove Franceschini via via ha sempre di più assunto un atteggiamento che a Roma, lo ripeto, non si offenda naturalmente il grande Dario, ormai ex, ma lo dico dal punto di vista politico, del cazzaro. Cioè, ha fatto delle cazzate una dopo l'altra. Per fermarci a quelle degli ultimi giorni, la trovata del calzino turchese era la cosa più cogliona che potesse venire in mente a un segretario di partito. Dopodiché ha tirato fuori il vice nero, perché... era un deputato bravo, intelligente, ma lui disse lo sceglievo perché è nero, il colore della pelle è nera. Poi ha detto che ci sarebbe stato un secondo vice, che era una signora, una donna, ma avrebbe rivelato il nome in seguito. Questo Panza, detto tra noi, e non siamo solamente io e Luca Terese che è in collegamento, ciao Luca, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Detto tra noi, secondo me Bersani qualche pizzico di demagogia ce l'ha messa pure lui nel primo giorno di debutto. Pochi minuti fa ha detto: mi pare che Berlusconi non si sia ancora autosospeso. Forse la settimana prossima, però, naturalmente intorno alla vicenda di Marrazzo. E poi da dove vuole iniziare ha detto: dal lavoro e dai precari, che è più o meno quello che diceva sempre Veltroni, evocando la parola magica precari. Però siamo ancora in una fase iniziale, vedremo le proposte concrete. La vicenda Marrazzo, la verità di Alfonso Signorini: Berlusconi ha avvisato Marrazzo dopo che, sentite, Oggi la notizia del giorno è la telefonata di Silvio Berlusconi a Marrazzo, che lo avrebbe avvertito della presenza di questo video perché era stato offerto in Mondadori. Questo è verissimo. È vero che il video di Marrazzo fu offerto a me da un'agenzia fotografica per la modica cifra di 200.000 euro. E che cosa succede? Succede che io, dopo averne preso visione, ho detto subitissimo che la cosa non mi interessava, perché non la ritenevo idonea alla pubblicazione. E a quel punto io ho avvertito chiaramente vertici della Mondadori, nella persona di Marina Berlusconi e di Costa, che è l'amministratore delegato, dell'esistenza di questo video. L'hanno visto anche loro e tutti hanno convenuto e hanno appoggiato la mia decisione autonoma di non pubblicarlo. Poi naturalmente qualcuno dell'azienda, nei vertici aziendali, ha avvertito Berlusconi dell'esistenza di questo video e Berlusconi ha chiamato Marrazzo, dandogli la possibilità, dicendogli che la Mondadori non avrebbe mai né comperato né pubblicato queste immagini, e nel contempo gli ha dato la possibilità di mettersi in contatto con l'agenzia fotografica che proponeva la vendita del video, cosa che poi è avvenuta, perché Marrazzo si è messo in contatto con questa agenzia. Allora, alle 18.44 voglio subito sapere da Luca Telese che cos'è che non va in questa vicenda di Berlusconi che chiama Marrazzo. Ti riferisci al fatto che io ho scritto su lucatelese.it, sul sito del Fatto, un commento in cui la cosa che mi sorprende è che tutti questi uomini di Stato, non ce n'è uno che pensi come prima cosa, di fronte a dinamiche di ricatto e affini, di fronte a video illegali, che pensi che la prima cosa che si fa si chiama la polizia. No, tutti dicono: chiama l'agenzia, compratelo, mettitelo d'accordo. Alla fine è il teorema Corona, ma questo povero Corona è stato crocifisso, ma tutti fanno come lui, e c'è qualcosa che non va se uno che fa il Presidente del Consiglio e un altro che fanno il Presidente della Regione provano subito a mettersi d'accordo con i venditori su un video che è stato girato in condizioni come minimo fraudolente. Però permettimi di dire una cosa, Luca, ora Marrazzo sapeva tutte le circostanze eccetera, non è detto che le circostanze le sapesse anche Berlusconi, perché probabilmente Berlusconi riceve una telefonata di qualcuno che lo informa dell'esistenza del video, ma non di quello che c'è dietro il video, cioè i carabinieri, il ricatto, il presunto ricatto eccetera. Berlusconi si limita a dire: c'è un video su di te, rivolgiti a questa agenzia se lo vuoi fare togliere dal mercato. Allora, intanto fa piacere al tuo recensore, che si chiama Nanzi Zanzara, dice che facciamo spettacolo quando litighiamo. Però, ma no, ma è un litigio vero, non è finto, apposta. Esatto, no, ma ti devo dire che chi è che si immagina, dice, sai, c'è un video con uno con due trans e la coca, ma chi è che non immagina che ci sia qualcosa di oscuro sotto? Su, non facciamo che veniamo, come dice a Roma, dalla montagna del sapone. Berlusconi ha capito in un minuto l'origine di quel video, così come l'hanno capito tutti gli italiani. Nessuno si fa filmare nella camera da letto con la coca e con i trans. Quindi lì c'è un problema grosso, vero, ma di cultura. Non sono un tagliagole, non faccio... Cioè, secondo te Berlusconi doveva... di cultura politica è che te ti stanno ricattando, vai, tieni, ti do il numero, ricomprati il video. E questo, mi dispiace, ma non funziona. Il problema più grosso però di questa telefonata, sì, non è che riguarda Berlusconi, riguarda Marrazzo. Ma come può uno pensare di fare il governatore avendo il Presidente del Consiglio che gli fa lo scouting sui video hard? Cioè, anche questa è una cosa molto strana. Beh, adesso, lo scouting sui video hard mi sembra esagerato, è semplicemente una telefonata per avvertirlo di una cosa che Marrazzo già sapeva, insomma. No, gli dice come fare, lo avvisa, gli dà il nome dell'agenzia, per carità, tutte cose che possono essere legittime, che però danno l'idea di un'informazione un po' alterata. Certo, sicuramente Marrazzo non avrebbe avuto nessuna dignità a dire, che ne so, no a Berlusconi sul piano sanitario. Ma non c'è una cortesia istituzionale in questa telefonata? Un attimo solo, c'è il traffico, poi torno subito da te, sai bene come funzionano i nostri tempi. 18.47, viabilità. Cioè, la telefonata di Berlusconi, questa è la domanda, non è una cortesia istituzionale nei confronti di un presidente di regione, oppure è un errore perché doveva chiamare lui i carabinieri, oppure doveva consigliare Marrazzo di chiamare i carabinieri o i giudici? bellissima questa presa da un blog su internet. Sapete che Rutelli ha praticamente annunciato di andare via dal Partito Democratico per aderire, non si sa quando, però è evidente, all'UDC o confluire nell'UDC con un suo movimento. Io con Casini non subito e non da solo, così ha detto Rutelli. Dopo il caso Marrazzo, tutti a fare outing. Va bene, allora con Luca Telese le domande sono queste, Luca, sono molto chiare. Perché non deve essere interpretato come una correttezza istituzionale quella di Berlusconi, invece come reticenza, come un modo di fare politica che non prevede sempre la chiamata al magistrato o al carabiniere? No, allora io ho detto che la prima cosa che mi colpisce e che Marrazzo non si sia reso conto che la situazione sua era già compromessa quando si arrivò a quel livello. E vabbè, su Marrazzo abbiamo detto. Ecco, la seconda cosa è che sicuramente c'è, ma non voglio crocifiggerlo. Ma no, ma crocifiggilo pure, mica non c'è problema. Cioè, quest'idea un po' strana che la giustizia è l'ultima cosa, anche per uno che fa l'uomo di Stato, no? Ci sono tutte altre vie, si prova, si aggiusta, ci sono dei poteri ormai diversi, il potere dei signorini, che io voglio dire rispetto, ma è una sorta di istituzione attraverso cui passano tutte le nuove vicende dello Stato, insomma è curioso. Vabbè, no? In questo caso è una cosa molto semplice, è stata offerta a un'agenzia una cosa, cioè dire un video, e il video è stato offerto anche a chi, perché i video si possono trasformare anche in foto, eccetera, ed è signorini che informi i vertici Mondadori, i quali a loro volta immagino informano il Presidente del Consiglio, anche perché si tratta della figlia, insomma. Con l'obiettivo di comprarlo e distruggerlo, allora voglio dire, non l'ho scritto io, ma l'ha scritto il Corriere della Sera oggi, Fiorenza Sarzanini, sì, che i magistrati hanno dovuto fare una corsa per evitare questo tentativo e per impedire che questo film fosse distrutto, perché questo film era la prova di un reato grave, cioè di un ricatto a un presidente di regione. Quindi mi sembra assolutamente, come ognuno può fare le idee che vuole, però da una parte c'erano due autorità dello Stato, sì, che sì, agiscono in un modo informale, diciamo nel segno, nell'estetica signoriniana o coroniana, e dall'altra c'era la polizia e i magistrati che indagavano. Poi uno può scegliere qualunque cosa, io preferisco la seconda, cioè come ho capito, come ho capito. A quelli che fanno un paragone tra la situazione del Presidente del Consiglio e quella di Marrazzo, io dico che le due cose sono totalmente diverse. Certo hanno qualche punto in comune, cioè dire delle debolezze, chiamiamole così, da una parte ammesse, dall'altra diciamo meno. C'è la differenza che dice Feltri, no? Nei bar Berlusconi passa come un viver, come un donnaiolo, e Marrazzo come quello che è andato coi trans, per metterla proprio sul brutale. Insomma, la similitudine, i paragoni si possono fare tra le due situazioni, oppure chi parla di autosospensione da una parte e invece di reticenza dall'altra fa demagogia? Ma intanto l'autosospensione è una truffa che fa male al povero Marrazzo, cioè la sua coalizione lo tiene in ostaggio perché non vuole anticipare i 3 mesi il voto, perché vuole prendere tempo, vuole fare melina. Qui non ci sono chiacchiere, Marrazzo è eletto direttamente dal popolo. Se al posto di Marrazzo c'è un signore che si chiama Ettorino Montino, questo non può accadere senza che gli elettori tornino a votare. E dice, ma è solo per 4 mesi, e sti cavoli, le regole servono perché siano rispettate. Quindi questo è il primo dato. Io però su questo non sono d'accordo, perché siccome le elezioni sono tutte insieme alla fine di marzo, se per 3 mesi c'è una procedura, insomma, dubbia, un po' chi se ne frega, cioè si va a votare tutti insieme a marzo e pazienza, qual è il problema? Perché le regole dicono un'altra cosa, parlano di grave impedimento, e questo che lui dire... oggi è andato in ospedale, si è fatto fare un certificato medico, arrivederci, grazie. Si è fatto fare il certificato medico, allora anche questo non va bene, cioè sappiamo che non c'è un grave impedimento. Beh, magari sì, perché è esausto, è mentalmente non è in grado di portare avanti la baracca. E allora si dimette, cioè non esistono le dimissioni che non dimettono, anche però loro dicevano che si era dimesso, parlavano di dimissioni politiche. Se sono dimissioni si deve dimettere, se no smettono anche loro di parlare di dimissioni. Se è un'altra cosa, e quindi questa invenzione dell'autosospensione è grave. Quanto al rapporto con Berlusconi, vedo un punto in comune a prescindere dalle valutazioni sulle implicazioni giudiziarie, me lo diceva Rosy Bindi che ho intervistato per Il Fatto, cioè c'è un elemento di solitudine nel potere. Se ci pensate è curioso, no? Il sovrano classico è l'uomo che ha la corte intorno, che ha un radicamento forte alle sue milizie, quelle che Machiavelli chiamava le armate proprie, no? Invece il sovrano dell'età moderna è isolato quasi nel suo potere, è sperso in modo diverso, cioè da un lato c'è la fragilità psicologica, mi sembra, di Marrazzo e questo. Però scusami, Luca, non è che solo i politici, solo i politici o chi ha il potere in mano, diciamo, va a prostitute o cerca un certo tipo di. Chiaramente in Berlusconi la ricerca anche compulsiva di avere 15 ragazze in un mese, c'è l'idea, che può essere considerata bellissima o sbagliata, per me è un po' crepuscolare, che la giovinezza restituisce la vita, no? Quindi io che sono il sovrano annoiato e stanco, non ne posso più dei miei cerimoniei di partito. Ho capito. Passare mezzo. Però al di là di questo, ieri Lucia Annunziata, intervistando Calderoli durante la trasmissione in mezz'ora, ha fatto capire chiaramente che da una parte Marrazzo si è dimesso, praticamente si è dimesso, ha detto, anche se poi tu dici che non è vero, effettivamente l'autosospensione non sono dimissioni, e dall'altra parte Berlusconi no. Insomma, secondo te Berlusconi dovrebbe seguire la stessa strada di Marrazzo o le due vicende sono completamente diverse? Secondo me sono completamente diverse. Sono diverse, ma c'è un punto in comune che in America non verrebbe perdonato a nessuno dei due, si chiama menzogna. Nessun politico dell'Europa occidentale, giusto o sbagliato che sia, in altri posti si teorizza, può mentire platealmente ai suoi elettori e agli organi di stampa. Per averlo fatto Clinton è passato in mezzo a un calvario e ha dovuto chiedere scusa. Allora Berlusconi ha sicuramente mentito su alcune cose, la ricostruzione, Noemi, la villa, lui era lì e c'era il cattivo tempo, in elicottero, conosceva o non conosceva Letizia, no, era l'audito dei Craxi, no, era un amico, no, dovevamo parlare delle elezioni in Campania. Quindi per questa cosa in tutti gli altri paesi sicuramente gli sarebbe chiesto o di scusarsi o di dimettersi. Non mi risulta abbia fatto nessuna delle due cose. Però insomma le similitudini tra i due ragazzi finiscono qui, insomma non è la stessa cosa. Tra l'altro Berlusconi dice di non essere l'altra similitudine, il comune denominatore è il sesso mercenario. Berlusconi dice che era inconsapevole, sì. Marrazzo addirittura in qualche modo lo ha negato finché è possibile, però c'è questa cosa che colpisce e ancora attiene a questo strano paradosso del potere, sì, che si isola dalla realtà, che persone che probabilmente potrebbero con uno schiocco di un dito conquistare molte persone, uno in un modo diretto, l'altro in modo indiretto, hanno bisogno di ricorrere a un sesso mercenario. Questo non implica un giudizio morale, per me dentro il suo letto uno può fare quello che vuole. Però politico, oppure, però politico. Oppure mettersi le manette, no, il nodo qui è uno diverso, cioè è un nodo un po' più sofisticato, cioè l'idea è come mai, ma non dico come mai lo fanno. TG3. Tensione nel centrodestra su Tremonti, faccia il vice premier, dice Bossi, è una garanzia contro gli sprechi, il PDL servono soluzioni, non promozioni. Marcegaglia incalza il governo, taglio dell'IRAP da gennaio, basta con i proclami, dice il presidente di Confindustria, adesso servono fatti. Il primo giorno di Bersani, segretario del PD, lavoro al primo punto sulla crisi, governo in Parlamento, l'incognita Rutelli. Caso Marrazzo, si indaga su droga e denaro, interrogazione del PDL sull'autosospensione del governatore, il vice, dimissioni entro novembre. L'odissea del barcone partito dalla Libia con 200 immigrati, scattati i soccorsi italiani, arrestati in Libia i due scafisti, un morto tra i migranti. Gentilini condannato per istigazione al razzismo, niente comizi per 3 anni per l'ex sindaco leghista di Treviso in prima linea contro gli immigrati. Paesi poveri in trincea, al vertice di Stoccolma sull'ambiente, cresce il rischio che molte terre vengano sommerse per lo scioglimento dei ghiacci. Milioni di fan incollati ai computer per gli U2 che dalla California hanno offerto il loro concerto in diretta mondiale gratuitamente su YouTube. Sentiamo Sky poi con voi. Tremonti vice premier, Bossi insiste, i vertici del PDL fanno quadrato da Berlusconi. La Marcegaglia chiede certezze al governo, taglio dell'IRAP da gennaio. PD nel suo primo giorno da segretario, Bersani fa i conti con il nodo alleanze. Caso Marrazzo, Montino annuncia il governatore si dimetterà entro novembre. Inchiesta su appalti e favori del 2008, Sandra Mastella rinviata a giudizio. Catania uccide a coltellate moglie e figlia di 8 anni, arrestato dopo aver tentato il suicidio. Elicottero precipita nel lago di Garda, morte le due persone a bordo. Ignorati da libici e maltesi, 200 immigrati nel barcone soccorsi dagli italiani. Gerlasco, il perito super partes, smentisce Stasi sulla telefonata ai carabinieri. Totti operato al ginocchio, incerti i tempi di recupero e domani tocca a Iaquinta. Bene, 800 24 00 24, prima degli ascoltatori, voglio farvi ascoltare Antonio Di Pietro, perché ho visto, in realtà l'ho vista su internet questa mattina, l'incredibile performance di Di Pietro ieri alla trasmissione di Fazio, e ha avuto la sfacciataggine, secondo me, Di Pietro di esordire in questo modo, sentite, è incredibile. E qui con noi il presidente dell'Italia dei Valori, l'onorevole Antonio Di Pietro. Ben tornato, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Visto che abbiamo un po' di tempo, affrontiamo vari argomenti se lei è disponibile, a cominciare dalle primarie del PD. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, una volta che mi ascolta qualcuno. Come non che ascoltano mi dà spazio. Mai? Come non mica, mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione, scusi. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Guarda, in televisione ci vanno soltanto chi devono sparlare di me, io difficilmente ci riesco ad andare. Quello ha truffato gli italiani facendo credere che votando lui, Benito attuale, Benito di oggi, stanno meglio gli italiani. Invece sta meglio lui e qualche amico suo. Capito? Io non capisco niente. Mo te lo spiego. No. Io faccio domande e basta. Però guarda che, ma in quel caso che a me di tutto si può accusare, compreso che non parlo bene l'italiano, no. Ma si capisce quello che dico. No, ma io... E tu hai capito benissimo. No, io te lo non pure del tumo. No, guarda, lei... Non fa il fesso. No. Non fa il fesso per non andare in guerra. Lei... Capisco che devi dire. Ma no, il, lei... contratto te l'hanno rinnovato o no? E allora stai in pace, lasciati andare. Ma lei deve sapere che chi fa il mio mestiere non deve capire, deve fare la domanda, non deve capire. E basta. Certo. Hai ragione, la RAI è così. Ancora Di Pietro, incredibile ieri secondo me da Fazio, ancora sentitelo la solida tiritera sul governo, ma ormai insomma campa di queste cose. In questo momento dobbiamo fare squadra unita e unitaria, perché abbiamo un pericolo di regime nel nostro paese. Questa perché è la sua opinione, naturalmente. Lo so che lei non vorrebbe sentirselo dire, ma io sono tra quelli che penso. Io sono tra quelli che penso che in questo paese c'è un modello di governo fascista, pituista, razzista e un po' xenofobo che sta riducendo il nostro paese in briciole. Gli applausi però. Lucia Annunziata ieri. Era sabato invece Di Pietro da Fazio, Lucia Annunziata ieri sul paragone tra le due vicende, Berlusconi e Marrazzo, era con Calderoli. Marrazzo si è dimesso con una formula un po' ambigua per permettere di non andare a votare eccetera eccetera, però ha fatto un passo che per esempio altri politici, e qui in particolare lo dobbiamo dire il Premier, non ha neanche preso in considerazione. No, mi scusi, ma qua proprio non regge proprio. Allora, mi spieghi, guardi, la differenza. Stiamo parlando uno di pele e uno di mere, allora. Mi spieghi lei le mele e le pere. Forza. Guardi, poi Calderoli in realtà non lo spiega troppo bene, non la spiega troppo bene questa differenza, e si avventura in un ragionamento su Berlusconi single, sentitelo. Perché Marrazzo si deve dimettere, come ha fatto, e il Premier no. Il Premier in fondo anche lui... No, ma mi scusi, ma di cosa sta parlando? Dice... Primo, Marrazzo non si è dimesso, si è autosospeso, che è un istituto che non esiste. Sì, vabbè, ma lei lo sa benissimo che è un passaggio verso le dimissioni. Su, siamo Credo seri con che con rispetto alle vicende poi raccontate dal Premier, perché poi dopo tutto il resto sono abbastanza delle fantasie, ciascuno a casa propria posso anche fare quello che ha voglia. Rispetto, credo di aver letto in maniera corretta, a un rapporto che si era interrotto. Qual è la differenza allora purtroppo... tra Marrazzo e il Premier? Che Marrazzo non l'ha fatta a casa sua, o che Marrazzo è andato no, con no, un no, trans, invece il Premier è libero di comportarsi, è libero di comportarsi, e se dichiara di avere un rapporto interrotto rispetto alla sua situazione familiare, è libero di cercarsi anche un futuro rispetto ai propri rapporti sentimentali. Marrazzo mi sembra che abbia si sia recato. Ministro, però in quando abbiamo cercato di intervistare l'andatario avete tutti detto che poi chiamavamo le prostitute, non è una anche relazione sentimentale. Epidemiologiche che questo consegue. Va bene. Va bene, difesa un po' deboluccia, devo dire, di Calderoli. A proposito, lo stesso Calderoli, ma non ve lo faccio ascoltare, durante la trasmissione ha detto che insomma l'IRAP si può anche non tagliare, lo si può fare in maniera molto molto diluita, cosa dicevamo la settimana scorsa, che in realtà gli annunci valgono per quello che valgono, anche l'annuncio fatto in realtà da Letta la scorsa settimana sul taglio dell'IRAP rimane tra gli annunci ancora in sospeso. 800 24 00 24 Fanzaga, ritorna il direttore di Radio Maria. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Su Bersani, nuovo segretario del Partito Democratico, sentite il direttore di Radio Maria come affronta la questione. Bersani è una, diciamo così, appartiene alla vecchia scuola comunista, pare che abbia fatto il chierichetto da bambino e poi ha frequentato la cellula, diciamo, del partito, da allora è sempre rimasto un comunista doc, diciamo. È un comunista, ma ha la sua specializzazione in economia, è un economista Bersani. Non mi risulta che sia un anticlericale, non dico altro, ecco, speriamo bene, insomma, cioè non mi risulta, nonostante la sua vecchia, le sue radici comuniste, non mi risulta che sia un anticlericale. Se vede qualche rimasuglio, gli è rimasto qualche nuvoletta di incenso di quando portava il turibolo e faceva il chierichetto. Poi è furibondo con Eugenio Scalfari, che ha parlato di vari papi e certamente non ha parlato bene di Benedetto XVI, mi sembra, di Papa Ratzinger. Sentite. Scalfari, ricordati che quando si è morti, si è morti. Ricordati, Scalfari, non arrabbiarti, che dopo un mese che sei morto nessuno sa neanche se sei stato vivo. E nel frattempo il giudizio eterno non verrà mai cambiato, mai più. Ricordatelo, che un mese dopo che sei morto di te non si ricorderà più nessuno. Sarò ancora io che dirò qualche Requiem Aeternam. Ma lei è sempre in televisione? Ma quando mai? Io la vedo sempre. Beh, in televisione ci vanno soltanto chi devono sparlare di me, io difficilmente ci riesco ad andare. Questo è Antonio Di Pietro, 14 volte da Bruno Vespa negli ultimi 16-17 mesi, 9 volte a Ballarò, 7-8 ad Anno Zero, solo per citare alcuni programmi di informazione. Ma sentitelo ancora ieri, una performance splendida per inquadrare quello che è il personaggio di Pietro da Fazio. Devo cominciare a dialogare con il Partito Democratico per costruire un'alternativa di governo, perché il mio obiettivo è liberare il paese al più presto di Berlusconi e creargli un'alternativa. Non era quello sulla resistenza al fascismo, va bene lo stesso. Andiamo a sentire la divisione che fa tra guardie e ladri. La politica è: da una parte ci sono le guardie e dall'altra parte i ladri. Come si fa a tornare a un clima istituzionale, civile, fra maggioranza e opposizione, se il clima rimane di perenne scontro? No, non è questo. Ma quale scontro? Quando sei tra guardia e ladro, non stanno facendo lo scontro. C'è la guardia e c'è il ladro. E non è uno scontro. C'è un solo modo per ritornare a un clima sereno. Liberarci di quelle persone che già scoperte nel 92 sono ancora adesso nelle istituzioni, e c'è un solo modo per liberarci: un ricambio generazionale della classe dirigente. Va bene, 19:37, 800 24 00 24. Fabio da Pordenone, buonasera. Buonasera, salve. Sì, prego, dica. Niente, io ho sentito poco fa il vostro giornale radio e ho appreso con molto entusiasmo la notizia che Gentilini, qualcuno ha deciso che finalmente Gentilini non potrà più fare comizi per 3 anni, era ora che qualcuno lo dicesse, perché veramente quando lo sentivo io sentivo proprio un clima da Repubblica Sociale, mi dava proprio fastidio sentire Gentilini, è quello che si potrebbe sintetizzare un fascista di quelli duri e puri, mi dà proprio fastidio, non lo sopporto. Però, secondo me la decisione di vietare comizi per 3 anni a Gentilini è abbastanza ridicola. Cioè, ci sono dei reati che venga condannato per istigazione al razzismo o cose di questo tipo. Vietare un comizio a qualcuno mi sembra una cosa sbagliata di per sé, come vietare ai negazionisti dell'Olocausto di parlare, senza voler paragonare Gentilini a un negazionista. Non ha senso. Se ci sono dei reati, uno viene condannato, o sbaglio? È sicuramente qualcosa di troppo blando, avrei fatto qualcosa di più io. Cioè, lei che avrebbe fatto? L'avrebbe impiccato al primo albero, non ho capito, l'avrebbe impiccato in piazza, mi spiega? Ma no, non esattamente, no. però insomma una pena, almeno una pena pecuniaria, non so, gli avrei dato qualche mese di reclusione. No, la giusto, pena pecuniaria a titolo come si può dire, a titolo sì, giusto per insomma per dargli una lezione, no? Per dargli una lezione. Comunque, guardi, 4.000 euro di multa se l'è presa Gentilini, sospensione per 3 anni dai pubblici comizi. Questa mi sembra una cosa abbastanza ridicola, non so nemmeno se si possa fare. Che significa? Non può andare in un comizio a parlare? Mix di Gentilini, le cose dette da Gentilini negli ultimi tempi. Si mettono a mangiare, bere, piena notte, pisciano sui muri, che vadano a pisciare nelle loro moschee se occorre. Io voglio la rivoluzione contro gli extracomunitari clandestini. Darò immediatamente disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. I culattoni devono andare in altri capoluoghi di regione. Voglio la pulizia dalle strade, voglio eliminare tutti i bambini dei zingari che vanno a rubare dagli anziani. Questo Gentilini, c'era anche qualcosa del comizio incriminato che era a Venezia nel 2008, ripeto, se c'è qualche reato lo si condanni, come è stato condannato peraltro a 4.000 euro di multa, ma la sospensione per 3 anni dei pubblici comizi, francamente, mi sembra una cosa assurda. Va bene, Dario da Cuneo, buonasera. Buonasera, dottore. Dica. Io intervenivo per il caso Marrazzo, in quanto secondo me è stato, tra virgolette, fucilato mediaticamente, in quanto io lo ritengo comunque un ottimo politico, che poi abbia i suoi vizi privati. Lei da Cuneo, conosce il modo di fare politica di Marrazzo, così in generale? Ma lo seguo un po' la politica in generale, vi seguo tantissimo, quindi un'idea me la sono fatta, diciamo così. Lo seguivo già da quando faceva Mi manderei tre, poi l'ho seguito anche, ma sì, un po' così la politica in generale. E secondo no, me... io lo chiedo, Dario, perché io seguo la politica, la seguo anche per professione, diciamo, per mestiere, ma devo dire la verità che non so giudicare Marrazzo per un provvedimento che ha fatto alla Regione Lazio, mi ci dovrei mettere sopra per giudicare che tipo di governo del Lazio è stato quello di Marrazzo, non so, francamente. Se uno è dell'altra parrocchia, fa i suoi, non nostri, tutto lì. Poi qui la situazione è più complessa, non mi sembra che sia dell'altra parrocchia. Ma lo so, però se ne fanno sempre dei casi politici più grossi, secondo me, di quanto sono in realtà. Non lo so, può darsi, Dario. Oggi, tra l'altro, Marrazzo ha trovato un difensore del sindaco di Roma Alemanno, che in visita ad Auschwitz ha detto: non mi pare che le questioni private di Marrazzo abbiano influenzato le vicende istituzionali della Regione Lazio. Secondo me non è così, per una serie di motivi che magari nel corso della trasmissione dirò confrontandomi con gli ascoltatori. Dove andiamo? Verona, Marco. Pronto? Sì, dica. Sì, buonasera. Volevo intervenire sul caso Marrazzo. Pronto? Prego, Marco, dica. Sì, ecco, due cose. Allora, prima ho sentito l'annunziata che incalzava quello della Lega, no? Chiedendogli che differenza c'era fra Marrazzo e Berlusconi, in sostanza. Sì. Sì, ecco. Beh, la differenza è abissale, perché Berlusconi si è limitato ad andare a donne, cosa normale, perché penso che il 90% degli italiani ci vadano. Nel caso di Marrazzo, invece, si parla di tutt'altra cosa. No, mi scusi, Marco, la differenza secondo lei è questa? No, la differenza è che... Cioè, se la differenza è il fatto che Berlusconi andava con le donne e Marrazzo con i transessuali, siamo messi male, No, è che ci sono altre cose, perché si parla di cocaina, si parla di ricatti, si parla di pagamenti di soldi in nero e altre cose. Ah, ecco, questo è un altro discorso, certo. Ecco, quindi è evidente che di ricatto di un politico importante... Quindi in qualche modo con il cazzo si può condizionare anche le decisioni di un politico, giusto? No, ma Marco, certo, di questo si parla. Infatti chi paragona, e lo ha fatto secondo me in maniera sbagliata, in una delle sue prime dichiarazioni, il neo segretario del Partito Democratico Bersani oggi, la vicenda Berlusconi a quella di Marrazzo, secondo me sbaglia anche di grosso. La ringrazio. Francesco, provincia di Frosinone. Buonasera. Buonasera, dica. Niente, io volevo parlare della vicenda dell'onorevole Marrazzo. Prego. E secondo me, io se fossi stato in non mi sarei di autosospetto, perché l'unica cosa che ha sbagliato lui è andare con l'auto del servizio, penso. Che non è una cosa da poco, eh? E che non è una cosa di poco, certo. Cioè, andare con un'auto di servizio in un condominio frequentato da prostitute, trans, è grave, cose sì, non grave. È una cosa così, insomma. Infatti è stata una grossa leggerezza. Comunque, secondo me non c'è... Cioè, secondo lei non si doveva dimettere? No, non si doveva autosospendere, perché così... Dimettere, autosospendere, quello che è? Non si doveva autosospendere, perché quella era una cosa privata sua, era una cosa tra lui e la famiglia, capito? Non è che... non così. Insomma, poi, guardi, la pensa così incredibilmente anche il sindaco di Roma Alemanno, oggi ha detto mi sembra che la vicenda non abbia avuto alcuna influenza sul funzionamento dell'istituzione, una vicenda privata che non ha influito sul funzionamento dell'istituzione. È stato benino, perché a parte il disavanzo che c'era con l'ex giunta Storace, poi cioè secondo lei ha governato bene, dunque non si doveva dimettere, comunque io non si doveva autosospendere. Io vado centrodestra, perciò lo posso dire apertamente che ha governato benino, con tutti il deficit che aveva lasciato Storace e le giunte precedenti, capito? Sì, no, ma adesso ripeto, io non ho molti strumenti per giudicare il governo di Marrazzo nel Lazio, però in questo caso non è l'oggetto della discussione, diciamo la verità, Francesco. La ringrazio. Leggo che ci sono decine di ascoltatori che se la prendono con me, perché ho detto che vietare a Gentilini di fare i comizi per 3 anni, come è stato deciso oggi a Venezia, mi sembra una cosa ridicola. Ripeto, se c'è un reato che Gentilini ha commesso venga condannato, istigazione all'odio razziale, ma vietare a Gentilini di fare i comizi, non so nemmeno come sia possibile una decisione di questo tipo. È come il confino di cui parlavamo l'altro giorno, l'obbligo di dimora per la moglie di Mastella. Va bene, Antonio Polito, buonasera. Buonasera. Senta, il nuovo segretario del Partito Democratico, Bersani, ha esordito in un modo, se vogliamo, un po' contraddittorio rispetto a quello che si dice di lui, cioè che la smetterà con l'antiberlusconismo, eccetera. Una delle cose che ha detto oggi è più o meno quella che ha detto Rosi Bindi nei giorni scorsi in un paio di interviste, sul caso Marrazzo, di questo sto parlando, non mi sembra che Berlusconi si sia autosospeso. Ma io non penso che Bersani smetta di essere contro Berlusconi, sarebbe veramente singolare se il maggior partito opposizione non tentasse di, non contrastasse il Premier, non tentasse anche di, diciamo, di batterlo a tutte le elezioni possibili. Quello che si spera è che Bersani metta al centro dell'iniziativa del PD più la questione sociale che la questione morale, quello che almeno io spero, sì. Perché... non si costruisce una politica sulla questione morale, soprattutto quando la questione morale va da reati gravi come l'ipotesi di corruzione di giudice a comportamenti meno penalmente e politicamente rilevanti come la frequentazione di una escort, mentre invece poi la storia non solo del nostro paese ma di tutti i paesi dimostra che alla fine l'elettorato ragiona più col portafoglio che con queste valutazioni e sceglie chi è capace di dare al paese una prospettiva di crescita, di benessere, di prosperità. Secondo Bersani, tra l'altro, è il suo mestiere, perché si è sempre occupato di politica economica e che è un po' impostato la campagna elettorale primaria su questo. Io spero che non metta al centro della politica del PD questo continuo braccio di ferro con Berlusconi sulle questioni morali, che finora onestamente non credo abbia portato grandi risultati elettorali. Secondo lei, per tornare per un attimo, poi parliamo ancora di Bersani, sono paragonabili le vicende di Marrazzo e di Berlusconi? In che modo? Guardi, onestamente secondo me non sono non sono della stessa grandezza, ecco, non so se sono paragonabili, forse no, non sono neanche politicamente paragonabili, ma per una ragione molto semplice, che la ragione che ha spinto, ha costretto, credo, Marrazzo a autosospendersi, è che ha ceduto a un ricatto, è stato ricattabile. Ora, lei capisce, un presidente di regione è anche un pubblico ufficiale di un certo peso e importanza, gestisce soldi pubblici, eccetera. Su personaggi di questa importanza per la vita pubblica non si può accettare che siano sotto ricatto. Poi il ricatto in questo caso magari è stato chiedergli dei soldi, ma poteva anche essere chiedergli un appalto o chiedergli di truccare una gara, eccetera. Oltretutto credo anche che appunto un pubblico ufficiale, quando è oggetto di ricatto, debba necessariamente rivolgersi alla magistratura, cioè denunciare la cosa, non può tentare di risolverla pagando. Ecco, nel caso di Berlusconi io ho sempre posto questo problema, cioè la cosa da accertare è soltanto e esclusivamente se queste frequentazioni rendevano ricattabile il Presidente del Consiglio, il che sarebbe molto grave. Finora non mi sembra che sono emersi elementi che possano farci affermare questo, quindi da questo punto di vista le due cose sono diverse. Senta, ancora una cosa su questo, riguarda la telefonata di Berlusconi a Marrazzo. Da come è stata raccontata, diciamo, da Mondadori, la cosa arriva a Berlusconi che chiama Marrazzo e lo invita a mettersi in contatto con l'agenzia. C'è qualcosa che non va? Alcuni hanno detto e scritto in queste ore: beh, Berlusconi poteva dire a Marrazzo di rivolgersi alla magistratura o ai carabinieri per denunciare un ricatto, se c'era, o non era compito di Berlusconi, che magari sapeva solamente dell'esistenza di questo video. Beh, c'è qualcosa che non va, che è un po' questo che lei dice. Adesso non si capisce se poi questo è stato l'invito che Berlusconi ha fatto a Marrazzo oppure gli ha semplicemente passato un'informazione perché se la cavasse da sé. Questo non sarebbe un problema. Ma c'è un altro problema, secondo me ugualmente rilevante, questo è certo, cioè che Berlusconi in questo caso ha usato esattamente un'arma che gli deriva dal suo conflitto di interessi, cioè essendo editore di un giornale ha saputo che esistevano questi video compromettenti e l'ha usato politicamente. Magari in questa volta l'avrà usato per il bene, nel senso che avrà detto a Marrazzo: guarda che c'è un ricatto. Una sorta di cortesia istituzionale. Ecco, diciamo. Però il conflitto di interessi sta nel fatto che un giorno in passato, in futuro, potrebbe invece aver usato anche per il male, nel senso di aver condizionato qualcuno perché magari il suo giornale, un giornale di sua proprietà, aveva delle informazioni. Cioè torna un po' l'ambiguità di questa doppia veste del Presidente del Consiglio, che allo stesso tempo è proprietario di attività imprenditoriali, tra cui editoriali, cosa importante, sì. Ed è anche un uomo politico. Per cui viene informato praticamente in tempo reale quello che avviene nel mondo, diciamo dell'informazione. Cose che gli altri non sanno, sì, diciamo, certo, e non certo. Per ragioni istituzionali, non l'ha saputo dai servizi, che ti voglio dire, in quel caso avrebbe anche un senso istituzionale perché i servizi devono riferire al Presidente del Consiglio, l'ha saputo da un suo giornale, da un suo giornalista, da un suo dipendente. Questo a me sembra abbastanza grave. Sento un'ultima cosa riguardo a Bersani. Lei, non dico che è stato uno sponsor di Bersani, però lo dica pure. No, è sponsor, insomma faceva il tifo per Bersani perché pensava e pensa che fosse la soluzione migliore per il Partito Democratico. Non c'è un po' il rischio, come alcuni hanno detto, le faccio una domanda molto banale, di un ritorno al passato, cioè al di là adesso della vicenda di Rutelli, che non so quanta consistenza avrà poi dal punto di vista dei numeri, cioè delle persone che emigreranno in questa nuova formazione, che poi forse aderirà all'UDC in che modo non sappiamo ancora, o forse semplicemente unendosi all'UDC in un'altra formazione, il Partito della Nazione, insomma quello di cui si parla da tempo. Al di là di questo, non c'è il ritorno ad una situazione in cui ci si mette tutti insieme per battere Berlusconi, da Vendola, diciamo, a può darsi appunto all'UDC? Guardi, ci sono per un partito politico ci sono buoni modi per vincere elezioni e cattivi modi di vincere elezioni. Quello, sì, che lei sta descrivendo è un cattivo modo di vincere elezioni, che ha funzionato in due occasioni, perché Prodi ha vinto 2 volte su 5 nel confronto con Berlusconi, poi ha governato, non è riuscito a governare perché era un cattivo modo di vincere le elezioni, ma diciamo l'obiettivo di vincere le elezioni non può comunque tramontare. Adesso Bersani ci proverà nella maniera che vi terrà, vedremo se sarà un vecchio stile eccetera, però è molto più naturale provarci che non provarci, perché finora questa storia della vocazione maggioritaria, diciamo, che aveva portato avanti Veltroni, cioè andiamo da soli e andremo al governo quando vinceremo noi, a me pareva il miglior modo per tenere Berlusconi al suo posto, perché è chiaro che il PD da solo non ce la fa, e oltretutto, non facendocela, con Veltroni ha provato la più innaturale e pericolosa delle alleanze, cioè con Di Pietro. Quindi non è che non si è alleato, si è alleato pure lui. In Italia anche Berlusconi è alleato, Berlusconi ha la Lega, che fra l'altro è un alleato abbastanza, diciamo, un alleato che pretende, non facile, perché in Italia ci sono i governi di coalizione, non ci sono solo in Italia, ci sono anche in Germania stanno trattando da un mese dopo le elezioni per decidere come fare il governo di coalizione. Cioè è normale in democrazia, a meno che non ci sia il presidenzialismo, no? Dove uno viene eletto direttamente dal popolo, è normale fare dei governi di coalizione. Poi le coalizioni le puoi fare fatte bene o sbagliate, e questo è vero che nel passato sono state fatte sbagliate, ma vanno pur sempre fatte. Va bene, grazie, grazie, buona serata. Grazie Antonio Polito, direttore del Riformista. 19:53:54. Andiamo, dove andiamo? Andiamo Riccardo, provincia di Modena. Buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Ascolti, dottore, volevo parlare dell'intervento fatto da quel giornalista mezz'ora fa. Sì, Luca Telese. Il quale, per intorbidire un po' le acque, ci ha messo dentro Berlusconi dicendo che ha fatto una telefonata a Marrazzo per avvertirlo. Beh, ma che male che c'è di male? Cioè, volevo il suo parere, mi pare che un po' l'abbia già detto lei. Ma guardi, Riccardo, Polito parlava prima del fatto che questa telefonata sia la fotografia del conflitto di interesse di Berlusconi, perché naturalmente poteva essere utilizzata anche in un altro modo. Però stiamo parlando sempre della stessa cosa, cioè del conflitto di interesse di Berlusconi, che controlla Mondadori, riceve informazioni privilegiate e le usa come vuole. Secondo me è semplicemente un atto di cortesia istituzionale, punto, nei confronti di Marrazzo. Questa vicenda che poi Berlusconi doveva chiamare subito i magistrati o i carabinieri, e che comunque doveva consigliare a Marrazzo di farlo, mi sembra francamente un processo alle intenzioni. La ringrazio. Don Antonio da Roma. Don Antonio, dunque, un religioso. Siamo contenti che ci chiami. Buonasera. Buonasera a voi. Ci dica. Ecco, io purtroppo mi sento un po' colpito da questa situazione, perché Marrazzo si è permesso di venire a fare un intervento per gli oratori, parlando bene, no, di tutta la vicenda, sa, qua, là, noi facciamo. Lei dove opera, Antonio? Io vivo a Roma, opero a Roma, e Roma è una grande città. No, a Roma l'ho capito, ma dove, in quale parrocchia? Guardi, la parrocchia si chiama Nome Santissimo di Maria, siamo un po' quasi all'esterno di Roma, Roma Sud. E chiaramente questo ci dà un po' fastidio, perché è l'ennesimo politico che si presenta ai nostri giovani con una doppia faccia. Perché Marrazzo cosa diceva quando veniva da voi? Ma lui dice che l'oratorio è una bella istituzione, che noi siamo capaci di fare tante cose belle, che dobbiamo stimare i giovani, imparare a dare a loro la forza per mettersi nella società. Poi la nostra società però mi scusi, che contraddizione c'è tra, diciamo, il cattolicesimo professato, la fede professata da Marrazzo, e poi quello che ha fatto, mi scusi? La coerenza morale. La coerenza morale, evidentemente. Cioè, se uno occupa determinati posti, adesso va bene, non è che vogliamo stare a fare i soliti peccati, no, qui, lì. Ci interessa un po' poco questo, ma ci interesserebbe di più dei politici capaci di dare un volto nuovo a questa società italiana, che è in ricerca con i giovani che tentano di trovare lavoro e non lo trovano, e si trovano da franti gente a 70 anni che ancora lavora per prendersi e guadagnarsi una pensione. Quindi abbiamo delle grosse contraddizioni. Ci interessano meno i peccati sessuali, se vogliamo, da questo punto di vista. Ci interesserebbe di più. Senta, le fanno impressione quei soldi lasciati sul tavolino, che siano 2.000, 3.000, 5.000 euro da Marrazzo per la prestazione, diciamo, sessuale, almeno da quello che si legge, da quello che si sa, con poi, come dire, l'agire quotidiano di un politico? E poteva spenderli dandoli magari ad una famiglia che in questo momento muore di fame, come tante ce n'è nelle nostre parrocchie. Potrà sembrare forse un'uscita così, un po' da Caritas parrocchiale, però ci sono i nostri parrocchiani che vivono con 600 euro al mese, due figli, hanno grossi problemi, le nostre parrocchie fanno fatica, 2.000 euro per una prestazione sessuale. Grazie. È quella contraddizione. Grazie, ecco. Antonio, tutto qua, grazie. TG5. Bersani, neo segretario del PD, scoppia il caso alleanze. Rutelli a Vespa, andrò con Casini e non da solo, ma lo disse tempo fa. Bersani, no alle scissioni, accetti la sfida. Da Berlusconi, coordinatori del PDL, rigore e sviluppo economico, siamo col Premier. Bossi torna sull'ipotesi di Tremonti vice, La Russa, non ne abbiamo parlato. Terremoto giudiziario a Firenze per presunti abusi edilizi, tangenti e appalti. 21 indagati, 7 gli arresti, bufera nel PD cittadino. Scattati nel canale di Sicilia i soccorsi italiani per i 300 disperati da una settimana su un barcone nel mare in tempesta, tra loro anche una vittima, molte donne e bambini. Una banale distorsione alla caviglia, gli applicano un gesso troppo stretto e gli amputano la gamba, vittima un 18enne di Trento. 28 anni fa vinse un miliardo al Totocalcio, ma la ricevitoria smarrì la schedina. Da allora lotta inutilmente per riscuotere la vincita. Ora basta, dice, denuncio tutti. Si alza il sipario sull'edizione numero 10 del Grande Fratello, la più lunga del reality. TG1. Primo giorno alla guida del PD per Bersani, lavoro e precariato, le priorità. Rutelli, parlo domani. Vertice coordinatori PDL con Berlusconi, sostegno alla linea di rigore e sviluppo. Bossi, sia Tremonti vice premier. Raptus dopo una lite a Catania, uccide la moglie e una figlia di 9 anni, ferisce l'altra di 13, salvata dai carabinieri. In esclusiva al TG1 le immagini del barcone in difficoltà al largo di Malta, 300 migranti portati in Italia, arrestati gli scafisti. Foggia ferisce un compagno di scuola con pistola d'aria compressa, bulli per noia e per gioco e non vanno neanche a scuola. La minaccia dello scandalo sul Principato di Monaco, al TG1 lo 007 che dice di sapere tutto del video contro Alberto. La clinica che salva le tartarughe marine ferite dagli ami, soffocate dai sacchetti di plastica, la battaglia di chi le difende. Va bene, Giuseppe da Pescara, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. La sento sempre con piacere. Ho sentito qualche sera fa un intervento di un toscano molto simpatico che la invitava ad essere un po' più deciso e a volte nel prendere posizioni in alcune situazioni. Io volevo intervenire sulla faccenda Marrazzo-Berlusconi. Sì. Però io non mi sento, non credo di essere né un moralista né un bacchettone, però credo che questo paese abbia bisogno assolutamente di una questione morale. E soprattutto. Ma a proposito a proposito della frequentazione degli uomini politici, diciamo della frequentazione. È uno degli aspetti. Chi rappresenta le istituzioni ovviamente non è la gente comune che si può permettere qualunque tipo di marachella, perché altrimenti anche l'esempio che noi diamo come paese, come istituzione, come anche nei confronti dei paesi esteri non è certamente. Giuseppe, io sono d'accordo con lei su questo. Io lascio dire il parere, io lo lascio dire tranquillamente. Non ritengo che questa sia. No, ma volevo aggiungere al suo ragionamento, volevo aggiungere un altro pezzo. Importante è che se fanno poi le marachelle non si facciano scoprire, cioè le facciano bene come succede in altri paesi. Ma questa è una forma anche di ipocrisia, cioè voglio dire chi sta in un certo posto che ha una marea di privilegi rispetto alla gente comune deve anche rinunciare a qualche cosa che non è indispensabile nella vita. Ho sentito dire che abbiamo fatto anche un'analisi esistenziale della solitudine di queste persone che stanno al potere, ma la solitudine di chi non ha il posto di lavoro e non ha meno di 1.000 euro al mese, allora quale può essere? Questa qua è una cosa un po' demagogica, Giuseppe, uno può essere solo anche da ricco, non è che si sentono soli solamente quelli che hanno problemi finanziari, come lei sa bene. Una sorta di solidarietà, tutto nasce a mio parere da una sorta di delirio di onnipotenza e anche di orgia del potere, cioè chi sta al potere ormai pensa di poter fare qualunque cosa e di essere impunito, e questa sorta di solidarietà io come abruzzese l'ho vissuta sulla mia pelle. Lei, credo che anche lei sia di origine abruzzese se non sbaglio, no. Non è abruzzese. Ho la mia famiglia che abita in Abruzzo. Ecco, la sua famiglia forse abita in Abruzzo, ma le voglio dire questo. Quando è successa la vicenda del nostro governatore della regione, stato, pur essendo un governatore di sinistra, c'è stata una marea di consensi, di solidarietà nei confronti di una persona che probabilmente ha commesso dei reati. Io dico probabilmente perché bisogna ancora dimostrarlo, però insomma, avendo vissuto in Abruzzo e conoscendo un po' le vicende della sanità, le posso assicurare che tutto quello che è stato detto non c'ha buon fondamento. Quindi credo che la necessità di una questione morale sia assolutamente importante, ma non solo nel campo della politica, ma anche nella vita di tutti i giorni. Ho capito, Giuseppe, ho capito bene. La ringrazio. Francesco da Roma, buonasera. Pronto? Buonasera Francesco, dica. Buonasera. Tanto per cambiare sempre sul caso Marrazzo. Sì, Marrazzo, sì. Io credo che Uno dei grossi mali di questo paese sia la faccia tosta dilagante in tutti, ma che nei politici raggiunge il parossismo. Di chi sta parlando lei? Di tutti, in generale? In generale, tutti perché hanno poi la alla fine, perché poi alla fine la classe dirigente rispecchia un po' quello che è anche il resto del paese. E poi il fatto che nessuno si assume le proprie responsabilità in questo paese. Quindi, per me, dal punto di vista... Vabbè, adesso andiamo sul concreto, insomma. Sì, dal punto di vista del caso Marazzo, il caso a questo punto, dato l'epilogo, non esiste più per quanto mi riguarda, perché comunque Marazzo ha ammesso il suo errore, sì, ha chiesto scusa e si è assunto le sue responsabilità lasciando l'incarico. Sì. Quindi a chiunque è dato di sbagliare, ma se ammette l'errore, chiede scusa e si assume la propria responsabilità, io i conti con lui li ho chiusi. Invece con chi sono aperti i conti? Sono aperti sul caso ovviamente Berlusconi. Perché secondo lei si dovrebbe dimettere pure Berlusconi? È perché in quel caso ovviamente non ha mai ammesso il suo errore, non ha mai chiesto scusa. Non solo, ma aggredisce con tutti i modi possibili chiunque lo critica. Scusi un attimo, scusi un secondo. Sì. Ma se uno non ammette qualcosa, necessariamente è colpevole? No, mi faccia dire. Quando è evidente la sua colpa, Francesco, certo. Quando è evidente? Ma chi lo decide quando è evidente? Allora, se vuole, il comitato centrale del partito delle manette? Le spiego anche perché appunto il caso Berlusconi è un caso simile, ma anche più grave del caso Marazzi. Un attimo, è solo una cosa evidente, secondo me. Sì, ma è evidente, infatti, è talmente evidente. Me la spieghi, c'è tempo. Prima ci sentiamo i titoli della 7, poi se ha qualche attimo di pazienza torno da lei. Vinte le primarie nel PD, Bersani subito alle prese con il fantasma della scissione. Rutelli annuncia andrò con Casini, ma chiarisce non subito e non da solo. Bossi vuole Tremonti vicepremier, ma il PDL fa muro. Siamo col premier, rigore ma anche sviluppo. È lo slogan che chiude il vertice del partito ad Arcore con Berlusconi. Duro monito della presidente di Confindustria alle banche, non guardino ai bilanci ma alle persone. Marcegaglia chiede anche al governo di dare tempi certi sul taglio delle imprese a piccole e medie imprese, al taglio delle tasse. Vogliamo fatti, non proclami, dice. A Firenze la procura mette sotto indagine 21 fra tecnici e politici per tangenti su abusi edilizi. Arrestato anche l'ex capogruppo PD a Palazzo Vecchio. A Napoli Lady Mastella rinviata a giudizio per appalti e favori nell'inchiesta che nel 2008 fece cadere il governo Prodi. Ore di apprensione in casa Totti mentre il capitano romanista viene operato al ginocchio. Ilari, improbabile, dolce e attesa, un malore a Campo dei Fiori. Lunedì nero con lieto fine, entrambi stanno bene. Va bene, la vicenda di Totti e Ilari Blasi che impazza nei titoli dei telegiornali, 20:10, pubblicità, poi torno con Francesco da Roma che ci vuole spiegare perché secondo lui la vicenda di Berlusconi è ancora più grave. La cosa incredibile che io noto in queste ore è in realtà che è scoppiato un casino intorno al Partito Democratico e soprattutto intorno alla Regione Lazio in questa vicenda di Marrazzo e le persone parlano di Berlusconi. È pazzesco, i dirigenti del Partito Democratico invece di... insomma, parlare della vicenda di Marrazzo o non parlare, perché ha ragione Francesco quando dice che la vicenda è conclusa da un certo punto di vista, si parla subito di Berlusconi, una sorta di ossessione, di tic nervoso che scatta in un secondo. Allora, a proposito della vicenda Marrazzo, non ha tutti i torti Calderoli quando fa notare ieri dall'Annunziata una cosa di cui nessuno parla, che è quella, perché siamo tutti un po' attratti in maniera pruriginosa dagli aspetti di questa vicenda, i trans, eccetera, eccetera. Nessuno parla del fatto che c'è una violazione evidente del segreto istruttorio, in questo caso con atti pubblicati, l'interrogatorio dei carabinieri, le intercettazioni. Sentiamo. Quello che è stato fatto nei confronti di Marrazzo è una vera e propria barbarie, non tanto per il caso in sé, ma perché nessuno, al di là delle dichiarazioni di solidarietà o meno, ha sottolineato e denunciato che ancora una volta troviamo sui giornali, il giorno dopo, i verbali degli interrogatori, i verbali di atti secretati che mai avrebbero dovuto essere pubblicati. Quello è il fatto eccezionale. Poi ciascuno risponderà privatamente, pubblicamente di tutto quello che è, ma non esiste al mondo che ci si trovi di fronte a una giustizia fatta dai mass media e non fatta allora, dai tribunali. L'annunziata un po' sorvola su questa cosa qui. Devo dire che a un certo punto premeva l'annunziata puntare sul paragone Berlusconi-Marrazzo. Allora, Francesco, mi scusi se l'ho fatto attendere un po', eccoci non c'è qui. Problema. Allora, no, cioè, siccome c'è il traffico, lei deve essere molto rapido. Guardi, io vorrei dirle che... Mi dica perché le due situazioni sono uguali, addirittura peggiore la vicenda di Berlusconi. Allora, sono uguali dal punto di vista dell'importanza della vita privata di una persona che ricopre un'importante carica istituzionale. In queste due vicende sono simili, perché comunque, anche se è più grave quella di Berlusconi, perché Berlusconi ricopre una carica istituzionale ancora più alta. Più sei importante, più hai necessità di dimostrare una responsabilità. In questo caso le due faccende comunque dal punto di vista qualitativo sono simili, quantitativo un po' differente perché è più grave quella di Berlusconi, per gli stessi motivi che ha detto l'ascoltatore precedente, ovvero chi ricopre una carica istituzionale deve mettere la sua vita su un binario di rigore e di sobrietà superiore di molto. No, ma su quello sono d'accordo, Francesco, mi scusi, però quindi, le due vicende sono completamente diverse. Prima Polito, che certo non è un simpatizzante di Berlusconi, ha detto nel caso di Marrazzo c'è la vicenda del ricatto. Allora, il caso del ricatto secondo me è un caso che il ricatto ha un'importanza fondamentale se si dimostra che quel ricatto era un ricatto volto a condizionare l'espletamento delle funzioni di Marrazzo. Finché io privatamente lo pago, sono fatti miei. No, mi scusi, lei di che sta parlando, Francesco? Guardi che pagare qualcuno per un ricatto è un estorsore, andare contro la legge, è un pubblico ufficiale. Va bene, questo lei ha ragione, dal punto di vista della questo però vale per tutti i cittadini, ma dico dal punto di vista della carica istituzionale che uno ricopre, la gravità di un ricatto è nel momento in cui io ho ceduto nelle mie funzioni al ricatto, è chiaro. Quindi il problema a quel punto è la ricattabilità sia di chi ha questi comportamenti dissennati privati che si espone al ricatto, in questo caso sia chi trasforma la propria casa in un bordello o chi va tutti i giorni come andasse al bar dal transessuale. No, ma lei sta mettendo le due cose insieme. Il punto fondamentale è un altro: se uno è disposto alla trattativa con chi viola la legge, naturalmente diamo sempre scontato che questo sia accaduto, come raccontano tutti i giornali, insomma si espone a una situazione complicata, ed è il motivo per cui alla fine Marrazzo si è autosospeso, dunque quasi si è praticamente dimesso. Tutto questo nella vicenda di Berlusconi non c'è, abbia pazienza. No. Io non sto dicendo che non è grave per altri motivi, non c'è però questa vicenda. Questa vicenda, io però gli ho detto, non è il punto fondamentale. Non è il punto, qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale è che poi nella vicenda Berlusconi, oltre ad esserci, come dire, un'arroganza, una faccia tosta in alcuni comportamenti. Ma quello che c'entra quello, mi scusi. Che non si hanno nel caso Marazzi. E poi c'è l'altra cosa. Ma qual è l'arroganza e la faccia tosta? È un giudizio estetico, un giudizio sul comportamento di Berlusconi, nella reazione di Berlusconi. Cosa c'entra il giudizio politico? Mi scusi. No, guardi, cioè, è chiaro, perché se dopo le evidenze che sono uscite, quando tu mi vieni con la Ma evidenze che di non... che? Berlusconi le nega queste evidenze, Francesco. Lo dice lei, evidenze. Le dico io. Vabbè, allora ci vogliamo prendere in giro, diciamo che non è avvenuto niente. Ma no, ma lei, bene, io non voglio prendere così, in giro nessuno. Non ho capito. Vabbè, Francesco, lei da che sappiamo tutti. Cioè quali? Ma che si era arrivati a trasformare una casa in un bordello, per dove entrava. Ho capito, ma questo lo dice lei, Francesco. Questo lo dice lei, abbia pazienza. Trasformare la casa in un bordello è una frase così da bar che possiamo discutere per divertirci. Mi dica, scusi, onestamente, lei mi dice che non crede a questo? Ma è indifferente quello che io credo o non credo. Ha capito qual è il punto? Cioè, quello che io credo o non credo è indifferente, Francesco. Non è importante quello che io posso pensare. È quello che esce che è importante. Qui sono cose evidenti. Cioè, secondo lei Berlusconi portava a casa una decina e decina di donne pagandole profumatamente. Questo era il. Ma non so se le pagava, ma comunque aveva le sue frequentazioni erano frequentazioni che comunque non si addicevano alla sua carica. Questo è un altro discorso. Ovviamente, come hanno esposto Marazzo, le sue frequentazioni alla possibilità di fuga di notizie e di ricatti. Guardi, ovviamente. Francesco, francamente, come ha detto Polito prima, di ricatti a Berlusconi non se ne ha. Non ne siamo a conoscenza. Poi le faccio ascoltare quello che ha detto Travaglio a questo proposito. cioè, dice Berlusconi è ricattabile da tutti i punti di vista, vive una vita di ricatti. Ci sono sempre i soliti che mandano i messaggi, basta difendere Berlusconi, non hanno capito che uno può anche pensarla con la sua testa, non perché ci sia una direttiva che viene dall'alto. Massimo Marino, buonasera, eccoci qui. Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Conduttore televisivo romano di Vivi Roma, ma è anche Vivi Roma Television. Vivi Roma Television, è stato anche candidato per Marrazzo, incredibile, Consumatori sì. Uniti con Marrazzo, sì, alle elezioni del 2005. Quanti voti ha preso lei, Marino? Allora, la lista Consumatori Uniti 22.000 voti, dei quali 1.777 miei personali. Beh, insomma, 1.777, addirittura numero pieno, no, eh. Non male. E non male. Naturalmente Massimo Marino è conosciuto soprattutto a Roma e nel Lazio, perché e dintorni, perché? Perché se uno accende a un certo punto la televisione di notte, se ha problemi di sonno oppure torna a casa la sera tardi, ogni tanto guardando le TV locali, cosiddette locali, che però a Roma sono molto viste, si imbatte in un personaggio straordinario, a modo suo, molto particolare, che frequenta e racconta le notti romane. Oggi, in un'intervista, anzi ieri, a Riformista, è stato definito e descritto in questo modo: il cantore della Roma bisex. Un po' troppo? No, verissimo. E ne sono un po' orgoglioso. Senta, ma lei che è stato candidato con Marrazzo, è un po' sorpreso da questa vicenda dei transessuali oppure è una cosa già scritta? No, non ne sono sorpreso assolutamente, anche e oltretutto questo è una cosa che è trasversale, insomma, poi a Ford era un po' forte questi tempi, chi si compra la Escort, chi si compra il Transit, quindi... Questa non è male, l'ho letta oggi anche su internet da qualche parte, ma magari è sua. Comunque, cioè, secondo lei è trasversale, cioè i trans, andare con andare con i transessuali, a Roma si dice in maniera molto esplicita, vai a andare a trans, diciamo, no? Sì, è una cosa. Il puttan tour una volta si diceva, si ricorda? Adesso. Rivisto e aggiornato trans. Ecco, lei dice una cosa, quanto è diffusa? Ma abbastanza, ma neanche me ne meraviglio, neanche sto lì a far moralista, perché poi penso che ognuno ha una vita sua privata e deve essere libero di fare quello che crede, perché poi io credo che ognuno debba avere la libertà di poter raggiungere la felicità sotto questo punto di vista. Come vuole, insomma. Però insomma, vuole, qualche errorino... Che non si toccano i bambini, il resto, quando è fatto tra persone adulte e consenzienti, nessuno ci deve mettere in bocca. Però insomma, Marrazzo qualche errorino l'ha pure commesso, diciamo, no? L'auto blu, il ricatto, eccetera, ma insomma non parliamo di queste cose che magari non le competono. Però lei giustamente oggi, ieri, in questa intervista Riformista ha detto una cosa, ma vi pare normale, lo dico in italiano io perché lei parla in maniera molto verace, sì. Vi pare normale che quando che scoppia uno scandalo sui trans, quando a Viale Aventino, e dunque Viale Aventino, che è un posto praticamente al centro di Roma, bene, e certo, dove abita la meglio Roma, la gente un po' più coi soldi, insomma, coi no? Soldi, bravo. Ecco, ogni notte ci sono vagonate di trans a mezzo metro dalle camionette della polizia, e poi uno si stupisce di quello che avviene, diciamo, sì, in un palazzo di Via Gradoli, no? Sì, infatti, appunto. Ma non poteva essere un po' più attento Marrazzo? Evidentemente si è lasciato trasportare da sta passione. Non si è saputo trattenere, diciamo. Sai, il brivido della trasgressione, no? Certo. Senta, ma comunque torna a ripetere. Sì. Io credo che le persone vadano giudicate, ma questo va, mi riferisco sia a Marrazzo quanto a Berlusconi, benché io sia dichiaratamente di sinistra. Credo che ognuno deve essere libero fuori dal contesto lavorativo, di una vita privata, di accompagnarsi con chi meglio crede, e nessuno si deve arrogare il diritto di metterci bocca, insomma. Vabbè, poi Marrazzo ha altre responsabilità, Io sinceramente l'ho sostenuto, ma... Ma dopo ci ha litigato subito però, diciamo. No, cioè, non è che ci ho litigato, perché io non litigo. E quando una persona non... capisco che non è una persona coerente e corretta, la ignoro semplicemente, capito? Cioè poi non le ha dato mai retta dopo questi voti che comunque no, sono stati... No, perché insomma mi sarei aspettato, visto insomma la carica che è andata a coprire, non gli mancavano i mezzi per alzare il telefono e dirmi grazie per avermi sostenuto. Tra l'altro ho fatto due domande, una dove mi mettevo a disposizione per le politiche giovanili, senza voler nessuna lira, gratuitamente, per le politiche giovanili e invece niente. Senta, però Marino, le voglio chiedere altra cosa. No, scusi, perché sì, si dica, altra dica. Cosa, siccome in campagna elettorale mi ero impegnato a fare un concerto gratuito a dei Flaminio Mafia a Tor Bella Monaca, sì, che è uno dei quartieri più degradati da capitale. Vabbè, insomma, non le hanno dato retta. Però Marino, le voglio chiedere... Alla fine chi mi ha aiutato... Alemanno. Chiaramente per il palco, le luci... Chi è stato? Il solo pubblico è stato Gasparra, allora presidente dei... Gasparra. Di Roma. Va bene, Marino, però le chiedo una cosa. Marino... Va bene, d'accordo. Marino, le chiedo una cosa, per concludere questa nostra conversazione. Ma qual è... Come dire, una domanda un po', se vuole, da psicologo. Qual è questa attrazione che c'è morbosa nei confronti del transessuale? Cos'è che attira così tanto? Ma probabilmente, non so, io forse non so, la persona meno indicata per dare... Vabbè, però lei la notte di Roma la conosce. Cos'è che c'è in fondo a questa attrazione? Io penso che quando arrivi a un certo punto che il potere te toglie il piacere di conquistare una donna, passi al resto. Alla fine per provare delle emozioni vai oltre. Ho capito, grazie, buona serata. A 8:30 c'è Francesco Cossiga, che è stato anche nostro ospite questa mattina al programma di Oscar Giannino. Fra poco magari vi facciamo sentire qualche passaggio di Cossiga, intervista comunque registrata. Prima c'erano delle anticipazioni in cui Cossiga parlava di quello che succederà adesso con il Partito Democratico: avrà successo, avrà maggiore successo rispetto a quello che è successo finora, chi uscirà e chi non uscirà dal Partito Democratico. Ne parleremo più avanti. Luigi ci chiama da Roma. Buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Senta, io ho chiamato sempre per la cosa di Marrazzo, ma prima vorrei dire una cosa. Sì. Io ieri sera ho visto la trasmissione di Fazio. Sì. E questa è una mia cosa personale. Io ho sentito Di Pietro e visto in televisione, è veramente vergognoso e stomachevole quello che questo signore riesce a dire e fare. Cosa ha detto di così vergognoso e stomachevole? Cioè, secondo me è una... Stomachevole mi pare un po' esagerato. Beh, vergognoso, guardi, pure io certe volte penso, ma per carità, ognuno è padrone di pensarla come vuole. Se io non lo sono, per fortuna, ma se fossi un suo elettore io veramente mi vergognerei. Ma guardi che questo Di Pietro così è esaltato nei confronti di Berlusconi, così Tranchant, così lui può dire tutto, perché cioè, è quello che piace. Lei non si immagina quanti messaggi sto ricevendo, cioè, in cui si scrive: ma cosa ha lei contro Di Pietro? È uno e che... allora veramente siamo proprio arrivati alla frutta in Italia, guardi, veramente non è questo qui di Berlusconi, di chi gli pare, siamo proprio alla frutta. Ma comunque lasciamo perdere Di Pietro, che allora, c'è da... Dunque, per il fatto di Marrazzo, ma anche qui tralasciando il fatto, cioè non voglio sindacare su niente, su quello, per carità, invece un'altra cosa vorrei dire: mi piacerebbe sapere se giovedì sera la trasmissione del signor Santoro, che è un storista, qualcuno, non sarebbe giusto di invitare qualcuno di quei trans per sapere dalla loro viva voce come ha fatto per la scorsa di Berlusconi. Cioè lei dice, siccome Santoro ha invitato la Daddario, adesso dovrebbe invitare Natalie, Brandona, queste qua. Oh, poi non solo questo, poi mi piacerebbe vedere come l'artista delle vignette, Mauro, esatto, dunque avrebbe tanto da disegnare, in che maniera, cioè potrebbe veramente... Vabbè, vedremo, Luigi, adesso giovedì la trasmissione, aspettiamo un attimo. È una considerazione che c'è da tanto fare. Vedremo se ci sarà ospite, Brandona, Natalie... Una, ne basterebbe una, anche perché... Lei chi preferisce, Brandona o Natalie? Se uno è amante della verità, delle cose giuste, delle cose... Michelle, com'era l'altra? No, vabbè, a parte scherzi, adesso Luigi. No. E poi giustamente un ascoltatore ci scrive: possibile che nessuno nella vicenda Marrazzo pensi alla sua famiglia? In queste ore c'è una famiglia chiaramente in un dramma su cui non bisogna insistere troppo e non bisogna scherzare troppo. Noi facciamo naturalmente soprattutto considerazioni di tipo politico su quello che sulla vicenda di Marrazzo, non vogliamo né ironizzare né altro. La ringrazio. Massimo da Lecce, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica. Innanzitutto ringrazio lei la redazione per questa possibilità, insomma, di parlare in diretta. Prego, dica. Ascolti, io ho sentito lei parlare spesso, diciamo, in un certo modo, più o meno deridendo, non voglio essere, diciamo, offensivo, però più o meno deridendo di Pietro. Ma mi chiedo, Pietro in quanto di Pietro, quello che dice. No, Pietro, non come persona, ci mancherebbe, no, non come persona. Ma mi chiedo, il peccato originale di questo uomo politico qual è? Quello di essere giustizialista per caso? A me non mi interessa qual è il peccato originale, Massimo. Io sento le cose che dice Magari il peccato originale di Antonio Di Pietro sia quello di essere giustizialista, perché se vogliamo fare il paio con i garantisti, perché. Se vogliamo, in Italia lo scandalo della giustizia è proprio la lungaggine dei processi. Vabbè, questo è un altro discorso, che c'entra con Di Pietro? Però potrei contrapporre al giustizialismo di Di Pietro, diciamo, come colpa, il garantismo, sì. Perché comunque alla fine ci vogliono 15 Vabbè. Anni. Se Lodo Mondadori fosse, diciamo, se la sentenza fosse venuta un anno dopo di quella sentenza comprata, magari il futuro di Mondadori non sarebbe stato questo, però dopo 17 anni ormai, viste le lungaggini, dopo 17 Vabbè, Massimo, anni lei parla di un qualcosa di eterno, volte, cioè la questione della lunghezza dei processi, d'accordo. Ho quasi finito. No, Massimo, però lei è partito da Di Pietro, adesso sta parlando della lunghezza dei processi. No, vabbè, okay, allora lascio questo argomento solo a Luigi, che ha chiamato poc'anzi, sì. E visto che lui dice che Di Pietro dice sempre le stesse cose, anche per berlusconismo, gli consiglierei di leggere La Padania 8 luglio 98 e vedrà che ha scritto l'8 luglio 98 le stesse cose che sta dicendo Di Pietro da un paio d'anni a questa parte. Cioè lei dice la Padania insultava Berlusconi 8 quanto? 8 luglio 98. Sì, no, anche sì, prima dell'8 luglio data, 98. Io vi dico la data, 8 luglio 98, più esplicito di così. Va bene, grazie buonasera, Massimo. Buonasera. Ugo da Milano, buonasera. Pronto, buonasera. Dica, guardi, Ugo. Guardi, il problema non è il problema essere affetti da berlusconite acuta come dice lei, ma il problema è politico. Il nocciolo della questione è semplicemente questo: noi abbiamo un premier, sì, proprietario di una casa editrice. Ma no, che novità! Che cosa nuova! Che può decidere se affossare o salvare un avversario politico. Veramente in questo caso, mi scusi, nel caso di Marrazzo mi sembra che il personaggio dal punto di vista politico si sia affossato da solo. La telefonata di Berlusconi non mi sembra che abbia cambiato granché. Se vogliamo restare... Se avesse avuto un tornaconto non lo avrebbe salvato. Ah, vabbè, il processo alle intenzioni. Dunque, se Berlusconi avesse avuto un tornaconto lo avrebbe ammazzato. Lei nasconde un'evidenza che è la palestina. Ma io non sto nascondendo nessuna evidenza, tant'è che Polito è venuto qui a raccontarla, quella che è un'evidenza per lui, cioè il conflitto di interessi di Berlusconi. E questo è il problema. Non è questo il problema. Allora, come lo diciamo che questo non sia il problema. Come problema. Lo non è Marrazzo, certo. Ah, no, certo. Se non commette reati può frequentare chi vuole. Sì, no, ma questa è la questione. Sì, questa la vedrà con la moglie, con la famiglia. Questi sono aspetti personali. Dunque, lei da Marrazzo, diciamo, dalla vicenda di Marrazzo, l'unica considerazione che viene fuori, secondo lei, è che c'è il conflitto di interessi di Berlusconi. Un totale conflitto. Ah, beh, Ugo, ma questo è anche questo è eccezionale. Se fossero state le politiche. E ci fosse stato il candidato premier avversario. Lei è strepitoso, Ugo. Dalla vicenda di Marrazzo va a parare al conflitto di interessi di Berlusconi. Questo è straordinario. Ma certo, perché lei questa cosa non l'ha raccolta, ma è fondamentale. Certo. È fondamentale, certo. Lei, cioè, sulla vicenda di Marrazzo dice: vabbè, uno può andare, con i transessuali, chi se ne frega, guardi, con l'auto non blu. Non è una questione di Berlusconi non Berlusconi. Chiunque governi, sì, e chiunque sia proprietario di mezzi di comunicazione come il nostro premier, sì, automaticamente ha questa arma straordinaria nelle proprie mani. Questa qua non è una novità, diciamo, è una cosa risaputa da 15 anni. Ma l'affare Marrazzo ancora una volta la dimostra in modo inequivocabile. Vabbè, diciamo che la vicenda di Marrazzo fa capire che i vertici di Mondadori parlano, in particolare la figlia parla col padre. E poi soprattutto allora, mi ha qual è il problema? Del direttore di chi? Cioè, che ha fatto? Che male ha fatto, signorini? Mi scusi, che male ha fatto? No, per signorini? Dire, tanto allegramente, stiamo parlando di grandi aspetti, aspetti politici, e lui allegramente dice che il premier telefona alla figlia No, veramente il premier non ha, guardi Ugo, allora prima si informi, prima si informi Ugo, Signorini non ha detto questo, Signorini ha detto una cosa, che lui ha avvisato i vertici di Mondadori, cioè dire i suoi datori di lavoro, che sono Marina Berlusconi e la missione delegato Costa, dopodiché non ha parlato. I vertici hanno avvisato. No, questo non l'ha detto. Può essere successo, anzi, sicuramente sarà successo. Ma le pare strano che Marina Berlusconi parli col padre? No, ma questo dimostra ancora una volta la mia tesi, la mia ma teoria. Ma cosa dimostra, Ugo? Cosa dimostra? Che dimostra Berlusconi parla con la figlia che è a capo di Mondadori? Dimostra l'evidenza. Dimostra che se avesse avuto un tornaconto politico da affossare Marrazzo lo avrebbe fatto. Questo non dimostra nulla, questa qua è la sua tesi, perché non è dimostrato dal fatto, da quello che è accaduto, Ugo. Questa è la sua tesi. Non sono così ingenuo da non capire che non sarebbe andato. Vabbè, comunque, Ugo, il punto è uno solo. Lei dalla vicenda Marrazzo tira fuori la considerazione che Berlusconi... Ma guarda, se ci fosse stato Marrazzo premier e Berlusconi presidente della regione Lazio, gli avrei fatto lo stesso ragionamento. Sì, no, ma sì, non sto dicendo. Per cui a me non interessa se il premier frequenta o non frequenta, o chi frequenta, può frequentare tutte le persone che, purché rispetti la legge, può frequentare chiunque. Poi sono questioni personali e familiari nelle quali io non desidero. Però lei dice se Berlusconi, se oggi a Berlusconi conveniva affossare Marrazzo, l'avrebbe fatto. Certo. Assolutamente. E questo è un po' il ragionamento è talmente evidente adesso anche non so. Per la controparte, scusi, anche per la controparte politica sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Ugo, guardi, è lo stesso ragionamento che ha fatto Polito, che dice Berlusconi in questo caso ha usato il conflitto di interessi, diciamo, per bene, per usare una terminologia brunettiana, cioè per avvisare Marrazzo, una forma, diciamo, di cortesia istituzionale. Però potrebbe utilizzare questo conflitto, questo suo rapporto con Mondadori, chiamiamolo così, per male, no? È quello che dice lei, no? Va bene, Ugo, vede che ci siamo trovati? Benissimo. Grazie, buona serata. Grazie a lei. Cossiga 8:30, sentiamo. Ecco, io adesso vorrei che vedessimo insieme il punto di Paolo Pagliaro. E a noi non ce ne frega nulla. Enrico da Forlì, buonasera. Okay, buonasera Cruciani. Dica. Volevo dire due cose, la vicenda Marrazzo, che tanta gente, cioè gli ascoltatori, molti dicono che la vicenda Berlusconi e Marrazzo hanno dei... Sì, dei punti di contatto, sì. Dei punti di contatto. Ma io... Beh, veramente i vertici del Partito Democratico dicono... che Berlusconi si dovrebbe autosospendere come Marrazzo, ma in realtà l'autosospensione non è prevista né alla Regione Lazio né per la Presidenza del Consiglio. Ci ridono tutti i giorni su queste cose. Ci ridono tutti i giorni. La faccenda è completamente diversa, no? Mettiamo che sono come due linee che viaggiano sulla stessa strada, completamente in parallelo, ma non si toccheranno mai. Vicenda Berlusconi è una cosa, vicenda Marrazzo è totalmente diversa. Primo perché ci andava con i soldi pubblici e le cose pubbliche, ma questa è una cosa che non riguarda tanto me, perché ognuno può fare quello che vuole. Ci sono sia Berlusconi e sia Marrazzo, possono fare totalmente quello che vogliono. Una cosa sola. Secondo me invece non è così vero che possono fare quello che vogliono. Io sono dell'idea. No, intendiamoci nel senso privato, privato. Ma io non sono nemmeno troppo d'accordo su questo. Secondo me un politico nel privato non può fare quello che vuole. Dipende naturalmente da come lo fa. Sarebbe un modo per non attaccare Marrazzo, se no sembra che uno vuole attaccare Marrazzo sulla sua vicenda. Dico solo questo, da uomo. Ma lei mica fa il politico, lo può attaccare Marrazzo, cioè, non faccia il reticente. Io non voglio attaccare nessuno, è una cosa che Vabbè, cosa vuole dire allora? Discuterle le cose. Piace discuterle, vedere i punti di vista di ognuno, sentire, io ascolto molto la sua radio, con lei mi trovo molto d'accordo, perché mi sembra il mio libro aperto, cioè che legge dentro il mio libro, comunque, a parte i complimenti. Grazie, dica su che cosa... Ecco, due cose. Su Marrazzo volevo dire solo questo, deve rendere conto alla sua famiglia, si dovrebbe un po' vergognare, perché la sua famiglia, sua moglie in particolare... può combattere magari contro una donna, ma non potrà mai combattere contro un trans. Beh, mi scusi, sì. Però Enrico, sì. Mi perdoni, però queste cose private, il perdono, i rapporti tra Marrazzo e la moglie, sì. Lasciamoli un po' da parte. Allora andiamo al fatto politico, che lui adopera i nostri soldi, Esatto, io per guadagnare quei soldi lì, come hanno detto altri, mi ci va un mese e mezzo. No? Cioè lei di cosa si scandalizza? Dell'auto blu o dei 2.000-3.000 euro della prestazione? Più che altro dell'auto blu e della come lo posso dire, la droga. La? La droga. Vabbè, la droga non è provato che facesse uso di cocaina. Sì, vabbè, sono solo dei video. Poi lui ha negato tutta all'inizio la faccenda. Eh sì, questo è vero. E tutta la ha detto è tutta la montatura. Sì. Allora, tu sai che è vero, sai che sei nel torto, fai che dimetterti immediatamente. Perché tu sei stato corrotto, dici che sei stato ricattato e hai pagato. Perché negare? Enrico, allora, quello non paghi, vai dai carabinieri e fai una denuncia. Enrico, stiamo parlando proprio di questo. La ringrazio, la devo lasciare. Me la permettono? No, 30 secondi, nemmeno, 30 secondi. Anche meno. Perché la sinistra ha preso i 2 euro per andare a votare? Non siamo abbastanza poveri di questi periodi. No, beh, Enrico, però anche questa mi sembra una polemica sterile, francamente. Non è nessuno obbliga gli elettori del Partito Democratico ad andare a votare alle primarie. Se vogliono, ci sono 2 euro da pagare. Non mi pare una cosa drammatica. Meno male che la politica si finanzia anche in questo modo, in un modo diciamo trasparente. Davide da Torino, buonasera. Buonasera a lei. Volevo intervenire sulla questione, prendendo spunto la vicenda Marrazzo e Berlusconi. Sì. Le quali, peraltro, secondo me, hanno soltanto in comune il fatto di una violazione di una privacy, perché sono state effettuate delle riprese in abitazioni private. Per il resto lasciamo poi agli ascoltatori decidere se ci sono delle similitudini o meno. Ecco, io però vorrei introdurre un concetto che è questo. Noi dovremmo vivere, ritengo, in un paese che è un paese dalla libera espressione, non dalla libera possibilità di esprimersi. E mi sembra che ci siamo in questo paese. E ci siamo, io ritengo che ci siamo. Allora, ecco, vede, l'espressione sessuale è in sé la più intima, ovviamente, ma anche la più sublime delle espressioni. Quindi io non andrei più a sindacare per niente, per nulla, su quelle che possono essere le abitudini sessuali, le preferenze sessuali. Nessuno infatti parla di questo in realtà. Delle persone, perché anche chi sta in certi posti di comando, prima di tutto è una persona con le sue necessità, le sue tendenze, eccetera. E le sue debolezze. Le sue e le sue debolezze, se vogliamo chiamarle così. Così ha parlato lo stesso Marrazzo, per cui vado alla conclusione, Davide, perché ho fretta. La conclusione è che la storia ci ha regalato fior di personaggi, condottieri, imperatori, artisti di ogni genere che ci hanno lasciato delle testimonianze che tutti ci invidiano, e non solo italiani certamente, ma anche di altri paesi, e avevano sicuramente una vita sessuale, diciamo, non normale, diciamo così. Allora? Quindi di queste abbiamo un'immagine assolutamente immacolata, quindi io sinceramente chiederei a quelli che sono intervenuti in precedenza dicendo, e guardate, ve lo dice un eterosessuale direi quasi noioso, non c'è bisogno di fare professione di eterosessualità. Bisognerebbe appunto, no, perché infatti è una professione ormai quasi, vabbè, bisognerebbe che la si smettesse un attimino nel 2009 di puntualizzarsi, di focalizzarsi su questo, vedere invece. Ma Davide, infatti nessuno parla di questo, si parla del possibile ricatto, della mancata denuncia di Marrazzo, nessuno parla, certo c'è una curiosità abbastanza morbosa su questa vicenda dei transessuali, questo è normale, ci sono pezzi oggi sui giornali che ci raccontano il perché, il per come ci siano molti italiani, un certo numero di italiani, adesso non so quantificare, che vanno con i transessuali. Dove andiamo? Andiamo a Padova da Davide, dobbiamo essere però veloci e sintetici. Poi mi aveva colpito un pochino quello che lei ha detto prima riguardo a Gentilini, cioè che gli sembrava un po' assurdo che questa persona sia stata interdetta, diciamo, dai comizi per 3 anni. Francamente sì, cioè uno può anche condannare Gentilini, non so quale pena secondo il reato commesso, però insomma vietare i discorsi per 3 anni mi sembra una cosa assurda. Ma poi cosa significa concretamente, Davide, mi scusi, che fosse quella la pena, diciamo, il tribunale ha... No Davide, ho capito, ma comunque mi ascolti un attimo, cosa significa che lui non può fare un comizio in piazza, lo può fare in un teatro, lo può improvvisare intorno a 20 persone, cioè, mi sembra anche difficilmente applicabile una cosa di questo tipo. Comunque, vabbè, ma a parte l'applicabilità, il concetto è che una persona come questa, che evoca la pulizia etnica, che istiga l'odio razziale, che è una cosa molto grave, voglio dire, sia libera comunque poi di poter continuare, diciamo, senza che nessuna istituzione prenda una posizione su questa. No, ma i tribunali possono condannare i suoi proclami. Ho capito, Davide, ma uno può essere condannato a pagare una pena pecuniaria, ad andare in galera in alcuni casi, anche secondo me, insomma, è un po' esagerato, ma insomma, tutto tranne così mettere un cerotto davanti alla bocca, mi sembra ridicolo. Stefano da Cuneo. Sani, sono d'accordo con lei, quello che volevo dire era proprio questo, quanto siano aberranti le affermazioni, cioè, sono anche, mettono un po' un gelo nel sangue di questi gentilini che non so chi sia, sentirlo per radio così mentre tornava in macchina era veramente raccapricciante, tuttavia ha il diritto di esprimere le sue opinioni, questo lo diceva Voltaire, la nostra società, la nostra cultura è un po' fondata su questo. Ma sì, insomma, mi pare abbastanza scontato, Stefano. Io non so, adesso domani approfondiremo. Abbiamo anche una mezza promessa da parte di Gentilini che va a letto piuttosto presto. Dunque, non sappiamo se poi potrà intervenire di essere il nostro ospite domani. Ma insomma, vietare a Gentilini di fare i comizi per 3 anni. Ripeto, primo, secondo me è una misura abbastanza inapplicabile, che bisogna vedere cosa significa comizi, di fronte a quante persone si considera un comizio, 100, 200, qual è il minimo per essere considerato un comizio? E poi mi sembra una cosa un po' ridicola, francamente. Grazie a tutti, ci sentiamo domani sera 18:30, ciao.